9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Oscar Genio, tornato, arrivato in questa diretta un po' avventurosa, prima condotta telefonicamente in studio, da me telefonicamente, ma in studio invece per fortuna da Alessandro Mila, perché sono irrotto nello studio, sono in questo secondo, quindi ho anche il fiatone e nel darvi un augurio. Di Enda, come vedete, si presta a una molteplicità di segnali, perché non solo l'Europa con le elezioni, il turno che c'è stato in Grecia e in Francia ci fa capire quanto non avessimo sbagliato a far vedere che le cose andavano di male in peggio. La Spagna ieri oltretutto ha dato ai mercati un segnale che, dovendo rimangiarsi l'impegno a non fare salvataggi pubblici nelle banche, perché dovranno fare un mega salvataggio del gruppo Bankia con cui hanno messo insieme 7 casse di risparmio molto malandate, e un altro segnale del fatto che scricchiola l'edificio europeo. Ma oggi la diretta continua perché ci dobbiamo occupare delle amministrative italiane, del primo turno delle amministrative italiane di ieri, perché come vedete anche lì The End si adatta perfettamente, perché lo abbiamo visto alla fine del collegamento, prima nella parte delle 8:20 alle 9 condotta da Alessandro Mina, la questione all'ordine del giorno è, per i risultati che si sono determinati, la fine della Seconda Repubblica, e quindi i Dors anche, ancora una volta sono perfettamente in linea con questo risultato. Ti pare o no, Alessandro? Azzeccato, esattamente, proprio i Dors sono perfetti, proprio The End, è The End. Naturalmente yeah, bisogna fare in modo che chi ci ascolta non pensi che noi vogliamo una specie di eruzione lavica sulla politica italiana, però ci pensano gli elettori, diciamoci la verità, a darla questa bella quella eruzione lavica. E io nel consegnarti di nuovo un secondo il testimone, perché ho bisogno di prendere un secondo il fiato e capire, perché sono veramente un pochino di corsa, mi limito a dire a chi ci ascolta che, come vedete, i toni concitati che alcuni mi hanno in maniera crescente nelle ultime settimane accusato di usare, di essere un capopopolo, di essere una specie di masaniello di quart'ordine, accuse che mi sono venute da parte moderata, perché è stato Giuliano Ferrara, quello che oggi titola il flop del Movimento 5 Stelle, quello che diceva che il governo Monti era un golpe, tranne il fatto che adesso dice che Monti era l'erede di Berlusconi, cioè siamo nel caos mentale dei grandi pensatori del centrodestra italiano. Ecco, questi toni concitati in realtà sono poi confermati dagli avvenimenti, e devo dire a chi ci ascolta che oggi ci occupiamo di amministrative, ma il pensiero nostro va sempre poi all'iniziativa straordinaria che Radio 24 sta tenendo in queste settimane, quella rivolta agli imprenditori che si suicidano. Ieri altri 2 commercianti si sono suicidati in Italia per questione di tasse e di banche che levano i fidi, e una figlia di 15 anni è riuscita a impedire che il padre si impiccasse. Quindi siamo a un ritmo oramai travolgente, più che quotidiano. Noi continuiamo a ricevere all'indirizzo disperatimai@radio24.it centinaia di lettere che testimoniano di questa rottura di continuità che c'è nel tessuto molecolare dell'impresa italiana, ed è anche questa una delle ragioni che gli italiani toccano con mano lavoratori dipendenti come imprenditori, del fatto che la politica ha determinato in 20 anni di Seconda Repubblica, facendo più spese e più tasse e fregandosene per il resto e azzuffandosi questa bella crisi che è più grave di quella di 3-4 anni fa. Tutto questo vive, secondo me, e spiega il risultato elettorale di ieri, che io considero un pallido inizio di quello che vedremo adesso di qui alle politiche prossime. Sempre che la politica non si rifondi, io non ci credo che il centrodestra, il PDL e Berlusconi abbia in sé la possibilità di riformarsi. Credo che la Lega debba mettersi alle sue spalle in maniera decisa una volta per tutte Bossi, e non sarà facile perché i partiti di strappi non sono capaci, tranne che solo i coraggiosi li fanno andandosene, questo è il punto. Non so chi avrà il PDL il coraggio di dirlo, dovevano dirlo già molto tempo fa, non l'hanno fatto. Vedo che pensano alla Santanchè come leader credibile sulle politiche del futuro, non aggiungo una sola parola, ma mi limito a dire che c'è una questione molto grande e importante anche per la sinistra. Il PD che perde dovunque, era successo a Cagliari come a Milano prima, come a Napoli con De Magistris, oggi il fenomeno è lo stesso a Genova con Doria, a Palermo è sotto i nostri occhi cosa vive con il ritorno trionfante di Orlando che spazza via nella proporzione del voto al primo turno il risultato dell'espressione del PD. Ecco, allora, di fronte a tutto questo il PD si può illudere che ci sia l'era Hollande che è cominciata. Io non credo che sia così, anche se la crisi della sinistra è una crisi di proporzioni e significato molto diverso dal centrodestra. Resta il fatto, fine della mia introduzione e ti passo la parola per passare poi agli ospiti, che poi c'è quel fenomeno che è quello degli astenuti maggiori, degli elettori moderati che si sono trovati senza un'offerta politica, che testimonia due cose diverse. Nella sinistra, dal Movimento 5 Stelle ad altro, a personalismi che possono essere Orlando con la sua storia, come novità, come De Magistris fu qualche mese fa a Napoli. In realtà a sinistra, dal basso, tentativi di ricomporre e ricongiungere le politiche in maniera analoga a quanto avviene poi alle urne di paesi che esplodono anche nel resto d'Europa, pensiamo alla Grecia, c'è. È nella destra che l'offerta politica è tutta bloccata, si sono ingessati illudendosi che ci fosse questo grande centro che arrivava e che non c'è, poi si vede, e per il resto sono tutte schermaglie senza senso. Quindi io posso solo augurarmi che sia chiaro a chi ha in mente di fare David Cameron in un'offerta moderata italiana, che dicano cose chiare sulle politiche, chiare come le dicono in Germania, come le dicono in Svezia, come le dicono in Gran Bretagna, c'è bisogno di partire dal basso e uscire da questo schema. Se Monti sia un golpista, sia o meno l'erede di Berlusconi, se sia Berlusconi a dover dire che la Santanchè è il leader, eccetera eccetera, mi sembra che siamo lontani alle luci da queste. Quindi viva i Dors, perché ci sarà molta confusione, Alessandro, sotto il cielo, e il nostro compito è quello di raccontarla, ma stando vicino agli italiani che dicono che non ne possono più e che vogliono cambiare le cose dal basso, perché le lettere che noi riceviamo in questi giorni, che continuiamo a ricevere, e anche sulla puntata di domani io ci tornerò su Disperati Mai @24.it, ci dicono che questo turno elettorale è sì una rottura di continuità, ma è una rottura che gli italiani invocano perché non ne possono più di una politica e istituzioni così distante. A te la parola. Ma sì, guarda, intanto Oscar, io la voglio subito girare a un ospite che ci ha raggiunto, che magari è uno di quei personaggi politici che potrebbe stupirci un po' nella lettura delle amministrative. Vale a dire Giancarlo Galan, che saluto, buongiorno Galan. Buongiorno. Eccoci qua. Giancarlo Galan è stato ministro della cultura, è stato per due volte a capo della regione Veneto, oggi non è parlamentare, è un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, e lei, Giancarlo Galan, è anche una persona che all'interno del Popolo della Libertà ha sempre detto le cose chiare negli ultimi tempi su cosa andava bene e che cosa non andava bene. Per esempio Berlusconi che dice: mi aspettavo anche peggio i risultati. Questo lo dice dalla Russia, dove è andato a trovare Putin. Le piace? E cos'altro poteva dire Berlusconi? Ha detto la cosa per lui scontata, certo che non è quello che pensa, forse si poteva andare ancora peggio, ma Berlusconi non poteva che dire quella frase. La realtà è che è stata una sconfitta evidente, totale, palese, dovuta a colpa nostra in principal modo, a mille altri fattori, per carità, abbiamo pagato l'uscita del governo, abbiamo pagato tante cose, ma la colpa è che i cittadini non ci hanno seguiti e quindi è colpa nostra. E se abbiamo il coraggio di osservarlo, di analizzarlo, di capirlo, di cambiare uomini e politiche, possiamo farcela a presentare un'offerta politica degna di questo nome per il centrodestra. Altrimenti ha ragione chi dice che la Seconda Repubblica è finita. Ma qui, Oscar, si parla di uomini, ma Galan, lei non crede che non è tanto questione di uomini o donne eccetera? Cioè il dibattito effettivamente è vi salverà la Santanchè come segretario oppure Alfano? Questa della Santanchè è una cosa che si inventa, così non c'entra nulla. La realtà è che noi abbiamo sempre vinto le volte che abbiamo vinto quando abbiamo proposto cose innovative, quando abbiamo proposto la rivoluzione liberale, e abbiamo perso perché non l'abbiamo attuata. Alla fine la politica, al di là delle lucubrazioni, delle cose più spaventose che si sono sentite, dalle convergenze parallele ai preamboli e ai sofismi, la politica è una cosa semplice: se fai quello che prometti alla gente, la gente ti vota. E se no non ti vota più. Il messaggio è semplicissimo. No, il messaggio pare semplice. Il contrario di quello che avevamo promesso. Oscar, l'analisi, no, l'analisi io, è questa, dire, voglio dire, dalle parole in tre di Galan righe. Ci desume, però vede Galan, lo Stato Maggiore del PDL, finché si tratta, lei ha la lingua più, diciamo, libera, e spesso in questi mesi, da 6, 7, 8 mesi, un anno a questa parte, lo dice. Però dire agli elettori, quando si sono presi per 17 anni i voti su Stato più leggero e meno spesa, per poi fare meno tasse, visti i record a cui eravamo, e non si è mai fatto, perché i 20 anni della Seconda Repubblica sono una gara ininterrotta tra destra e sinistra a fare più spese e più tasse, sia destra che sinistra, stessa linea politica, la stessa linea di governo Amato nel 92-93 che arriva fino al Salva Italia di Monti, mai cambiata. Quando, come dice lei, lo si è promesso e non lo si è fatto, capisce che il problema per ripartire bisogna dirlo solennemente di fronte alla gente, cioè bisogna che ci sia un vertice del PDL o dei fuoriusciti del PDL che dicano con chiarezza: elettori del centrodestra, abbiamo giustamente perso la faccia, Silvio Berlusconi ne porta la responsabilità, Giulio Tremonti ne è stato il braccio armato, erano in dissenso ma insieme ci hanno rovinato. Entrambi non saranno più il punto di riferimento, questa è la linea di partenza, perché ci candidiamo a essere credibili in quella linea. Se lei mi dice che è quella linea, che da sempre è la mia linea, e che però ha perso il diritto di cittadinanza perché la gente mi ride dietro dopo questi 17 anni e dice: non vi è bastata la buffonata di questi signori Galan. Purtroppo io alzo la voce perché è così, capisce? Perdere il diritto di cittadinanza per idee che hanno secoli in Italia mai attuate, perché avete fatto il contrario, è qualcosa che non vi dà diritto di continuare a parlare. Lo capisce questo? Io credo che lei lo capisca, non lo può ammettere. Però il problema è che avete poche settimane per tentare di attuare un cambio di marcia, altrimenti verrete travolti, tranne ovviamente qualcuno dei capigruppo che verrà rieletto per continuare a servire il padrone. È così o no? Mi sbaglio? Non, a parte il tono, che detto a me mi viene voglia meglio alzare la voce. Le chiedo perdono perché è il tono di chi viene deriso in giro. Sostanzialmente, con altre parole, perché insomma parlare così male dei miei io non ci riesco. Però sostanzialmente non do mica torto, abbiamo poche settimane, anzi il tempo è scaduto, ma io sono fiducioso, perché se si osserva al di là della linea politica nazionale, si osservano i comuni, è stupefacente, ci sono uomini del PDL che hanno ottenuto un grande consenso personale, quindi gli uomini ci sono, manca il partito, ahimè, mi tocca dire questo. Ma andando in giro e scegliendoli diversamente da come sono stati scelti fino ad oggi, gli uomini ci sono. Ma cosa dovrebbe fare un repulisti il popolo? Cioè Berlusconi arriva e dice via quello, via quello, via quello. Beh, insomma, qua quando si perde così clamorosamente si va a casa, si fa un altro lavoro o ci si mette dietro le quinte e si manda avanti qualcun altro. Noi eravamo il partito che voleva e che era determinato a cambiare tutto. Siamo diventati il partito da cambiare. Qualcuno ne ha la responsabilità, mi metto anch'io fra quelli, sa? A parte che io, non, come ha detto, non sono parlamentare, non sono niente, in pratica sono già a casa, ma dico, ci sarà qualcun altro pronto a fare un passo indietro? Ecco, io mi assumo anche le mie responsabilità, ammesso che nel Veneto si va meglio che altrove, ma me le assumo, io sono vecchio per la politica per certi versi, ci vorrei che qualcun altro lo dicesse. Ma questo lo dico io che ho 56 anni e non ho fatto neppure una legislatura da parlamentare. No, ma questo effettivamente ne ha fatte 9, è 10. Un problema. Oscar, qui c'è Sarkozy che dice non farò più politica, ma hai sentito poco fa il sindaco di Varese Fontana, Oscar, alla domanda Bossi, non c'è, ma forse le linee del passato, e ci sarà ancora Umberto Bossi. Se si ragiona così, i partiti tradizionali saranno spazzati via, perché non hanno capito che la gente non ne può più. Io questo sono d'accordo con Galan, e devo riconoscere, poi mi chiedo se il fatto che Galan, che giustamente ricorda, non ha responsabilità, non è parlamentare, è stato brevemente ministro della cultura, ma detto questo, insomma, detto questo, è questo che spiega poi perché parla più liberamente di queste cose, perché vede Galan, la cosa che mi colpisce è come le cose che ho riportato prima con un eccesso di calore di cui chiedo scusa, sono quelle che io poi mi sento dire dai parlamentari e dagli ex ministri di Forza Italia e poi del PDL, ma me le sento dire da anni. tranne il fatto che non si è mai materializzato nulla di concreto, di visibile, di comprensibile agli occhi dell'opinione pubblica italiana. Ecco perché poi si va a casa, come dice lei. Però solo che non si può lamentarsi, non si può dire che il Movimento 5 Stelle poi è l'antipolitica. Quelli nascono su un altro treno, un altro humus, però nascono dal basso, di una società italiana che dice ci avete dato un'Italia che non sta in piedi. Questo... Io sono d'accordo su questo. Le posso chiedere solo una cosa? Il Movimento 5 Stelle è la misura dell'incapacità degli altri partiti di fare politica con la P maiuscola. Non è né antipolitica né una bestemmia. Le posso chiedere una cosa? Ma quando vota la gente bisogna rispettare, insomma, il voto della gente. E quello è il segno del fallimento dei partiti. Le posso chiedere? Non hanno ancora capito. Le posso chiedere una cosa che riguarda invece il suo Veneto e riguarda appunto il risultato di Tosi, di Tosi a Verona. Ecco, lì ripartire da una Lega che in tutto il nord prende legnate anche lei, inutile che sottovalutiamo il calo che c'è, mentre su Tosi, che rischiava l'espulsione 2 mesi fa, c'è questo grande fenomeno di consenso. Che cosa vuol dire? Che il centrodestra, che si era diviso e che aveva avuto, anche quando lei era la guida della regione, insomma, lei aveva un rapporto muscolare con la Lega che non risparmiava nella collaborazione, anche critiche pesanti a quello che chiamava il suo sistema, no? Sistema Galan. Però l'ho fatto dopo, però l'ha fatto una parte della Lega. Tosi è stato il mio assessore della sanità. È vero, è quello stavo dicendo. Bisogna ricominciare però da un rapporto che non è quello della divisione alla fine del governo Berlusconi, o no, o sbaglio? Non è un po' questa la lezione di Verona? La lezione di Verona è più complicata e anche più dura, perché la testimonianza è che non esistono più né la Lega né il PDL, e che sono finiti almeno in quella città, ma non soltanto l'impressione in quella città. Pensi soltanto che, con un paradosso, io potrei dire: guardate, il PDL è andato malissimo, il sindaco che abbiamo proposto è arrivato quarto addirittura, però Forza Italia ha vinto. Perché nella lista Tosi, che è quella che ha vinto, non ha vinto la lista della Lega, ha vinto la lista Tosi. Ma no, la lista sua personale, In quella lista sono stati eletti 11 uomini di Forza Italia. Quindi vuol dire che il partito ufficiale non solo non esiste più, ma non ha capito nulla. E oggi si parla di espulsioni. Io invece andrei a cercare di capire perché i migliori di Forza Italia, di AN, anche ce n'erano 2 di AN, sono andati con una buona esperienza amministrativa come Tosi e non hanno seguito gli ordini del partito. Andrei a cercare di capirne i motivi e farei di tutto perché ritornassero a offrire alla popolazione di Verona un'alternativa a questa miseria che c'è oggi. Allora gliela metto così, prendendolo spunto da quello che ha detto. Se sono finiti, per certi versi, sia la Lega che il PDL, se guardiamo a un nord che oggi Corriere della Sera dice resta più orfano perché è finita la lunga epoca dell'ancoraggio, che è durato in tutta la Seconda Repubblica, prioritariamente nel centrodestra da parte del nord. Nel nord, col bilancio che lei ha fatto, da dove deve ricominciare il centrodestra? Devono essere figure credibili, personali, che dal basso rifanno cuciture e ricuciture, visto che i partiti hanno perso pezzi e non sono più credibili, e costruire un consenso su capacità di governo locale e nazionale con la propria faccia? Oppure bisogna avere un'altra strategia, secondo lei, nel nord per il centrodestra? Cerco di in 20 secondi di dire come si dovrebbe fare. Si dovrebbe partire dalle persone. Le ho già detto prima che ci sono anche a Verona, non quelli che attualmente sono, per esempio, parlamentari, evidentemente, ma ci sono le persone che siano credibili nel proporre una ripresa dei temi che ci hanno consentito di avere così tanto consenso nel passato e che siano anche così credibili da poter sostenere di realizzarli. Ecco, questo ci vuole. Dopodiché sarebbe anche bello che un'esperienza come quella che io, insieme a Tosi, insieme a tanti altri, abbiamo condotto in regione, fosse esportata e che i partiti a Roma fossero consapevoli che alcune buone esperienze amministrative, com'è quella della Regione Veneto dei miei 15 anni, com'è certamente quella di Tosi in Regione prima e dopo, com'è quella di Floriano Zambon del PDL a Conegliano, come ce ne sono tante, sarebbe bene che riuscissimo ad esportarle. Questo è il vero fallimento e l'isolamento del Nord-Est. Noi non siamo riusciti ad esportare a Roma, non ci è stato possibile, non è stato realizzabile, non so, ma sarà anche colpa nostra, ma non siamo riusciti ad esportare un modello che è vincente e che è anche apprezzato dai cittadini, perché come vede i cittadini del Veneto non hanno mica votato a sinistra. No, certo. Però c'è molto, molto da fare. Mi pare però se si analizza con umiltà, sapendo che con umiltà, non trovo parole più adatte. Con umiltà ricominciando quella le persone. Quella che è indiscutibilmente certo. Una sconfitta e si riparte da quella comprendendone i motivi, allora c'è un domani, altrimenti è meglio chiudere. Mi pare, Alessandro, che dobbiamo lanciare la pubblicità. Sì, altrimenti si fa come la russa che dice mi aspettavo di più da Grillo, no, Oscar? Vabbè, comunque. Noi ringraziamo Giancarlo Galan e tra poco ci sarà Oscar Leo Luca Orlando, colui che ha trionfato, si può dire, a Palermo. Il sindaco lo so fare. Lo so fare, sì. Ha detto anche sono un giovane picciriddu oggi a Mario Aiello sul Messaggero. Sono un giovane sindaco. Tra poco sarà con noi, non è sindaco, ma è vicino, è arrivato vicino al trionfo, insomma, 45%. Dovrebbe essere lui il nuovo sindaco di Palermo. Tra poco, 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in studio, siamo nell'incertezza perché naturalmente siamo in studio in due città diverse, quindi non ci guardiamo negli occhi tra me e Alessandro su chi per primo deve prendere la parola. Dovremmo mettere però un piccolo collegamentino video. Per non perderci mai di vista, Oscar. Esatto, ma questo almeno poi, soprattutto in giorni così. Vedo che alcuni ascoltatori oggi, vedi, è bello perché li mischiamo, gli ascoltatori, i miei e i tuoi, infatti vedo che oggi torna a esserci un certo uomo che mi dà dell'ex leccapiedi che sto dando ragione e torto a Galan, che faccio pena. Vabbè, comunque, amen, evidentemente. Sai cosa ci ha detto fuori onda Galan? Questo è un bene. Lo possiamo dire cosa ci ha detto fuori onda Galan? Quando io ho citato la russa. Ho citato la russa, ha detto al nostro assistente Franco Piantanida, comunque se mi accostate ancora alla russa vi faccio ammazzare. Vabbè. Questo, ovviamente sorridendo. Perché vedete, credo che la russa sia molto più temibile. Allora, noi adesso abbiamo collegato com'è che si è definito, dicevi, Alessandro Milan oggi? No, su Leo Luca Orlando, buongiorno, un giovane picciriddu in un'intervista al Messaggero. Sono un giovane sindaco. Così. Ma sa, Pablo Picasso sa cosa diceva? Pablo Picasso diceva, se vuoi essere giovane, veramente giovane, occorre che passi molto tempo. Allora devo dire che Leo Luca Orlando è nella fase prepuberale, no, tra l'altro sta diventando giovane, sì, sta diventando giovane. Orlando, io devo dire, io sono Alessandro Milan, lei si ricorda proprio da me disse quella frase che l'ha tormentata nella campagna elettorale, lo dico in aramaico, mai a Palermo, e lo ripeto in aramaico, nel senso che in quel momento si parlava di come trovare un candidato unitario. Io ho detto, se sono io l'ostacolo all'unità, lo dico in aramaico, non mi candiderò. Lei voleva dirci. Io ve lo dico in aramaico perché non l'ho detto in italiano. Non l'ho detto in italiano, fatta tu vero che si candida. Lei sa meglio di me che l'aramaico è un alfabeto, non è una lingua. Esatto, ma infatti come abbiamo in aramaico. Quindi ci ha fregato. No, vabbè, intanto complimenti per i voti, però Orlando, come la dobbiamo chiamare? Già sindaco, perché qua 45%. Siamo 48,9, quasi 49%. Diciamo, sostanzialmente, mi tolgo dall'imbarazzo. Io morirò sindaco di Palermo, fa 500 anni evidentemente, perché io sono sindaco onorario di Palermo in Colombia. C'è una città in Colombia che si chiama Palermo, la seconda Palermo del mondo, ha 35.000 abitanti, e io sono stato nominato dal Presidente della Repubblica Colombiana sindaco onorario di Palermo in Colombia. Quindi comunque muoio sindaco di Palermo onorario in Colombia. No, Marco, al di là di questo, è ovvio che il fenomeno, la proporzione dei voti c'è tutta, e la proporzione di disfacimento delle vecchie alleanze. Ho visto che ieri sera l'altro protagonista che va al ballottaggio picchiava molto sul fatto che i voti, diciamo così, dell'ambiente di Lombardo, eccetera, eccetera, sono andati tutti a lei. Diceva, si sa dove sono andati i voti. No, no, ma io mi limito a dire, nelle interviste che rilasciava a Tamburo Battente, il suo deuteragonista, diceva la destra, ecco, la destra vota per Orlando. Non faccio polemica, non faccio polemica con gli scomparsi. La cosa molto semplice è un'altra. Sostanzialmente il tema di fondo è questo. A Palermo sono implosi il PD con la L e il PD senza L. A Palermo, ma questa è di Beppe Grillo, però lei parla come Beppe Grillo. Vabbè, ma a Palermo ci sta tutto, tant'è che a Palermo i grillini non hanno avuto il successo che hanno avuto in altre città d'Italia, perché hanno trovato in me al tempo stesso l'anticasta e il volto rassicurante di uno che può governare la città. Hai capito, Oscar? Qui insomma. No, ma sulla destra, sulla destra stavo dicendo, poi l'abbiamo interrotto. Sulla destra le ha detto. Dicevo che io, avendo avuto quasi il 50% dei voti, evidentemente ho avuto voti da parte di palermitani che in altre elezioni hanno votato o per il PD o per il PDL, per la destra come per la sinistra. I cittadini, ma i blocchi di potere non esistono più, sono sciolti anche quelli, secondo lei? No, hanno commesso l'errore di pensare che i palermitani fossero destinati a restare sempre condannati al collare. I palermitani si sono tolti il collare e hanno scelto me, e loro sono rimasti col collare in mano. Da questo punto di vista, il giorno in cui, cioè, lo vedremo quando c'è il ballottaggio, tra poco, lei deve formare la sua giunta. Alcuni nomi li ha indicati, sono trasparsi, eccetera. Ma quando i partiti che hanno tenuto tutto sotto cappe così pesanti si liquefano, si sciolgono, commettono errori tali per cui c'è un fenomeno dal basso, che come quello che si catalizza oggi si deve a Palermo, ma è la stessa vicenda in proporzioni minori, ma insomma con altrettanta forza, che è avvenuto poi con De Magistris a Napoli, tante altre volte che il PD ha sbagliato tutto sulle primarie. Ecco, in quel caso le giunte come si fanno se i partiti sono... Ma è molto semplice, guardi, sa cosa accade? Accade una cosa molto semplice, che la giunta la faccio io, non ho in tasca nessun bigliettino con l'elenco di assessori, mi assumo la responsabilità delle scelte che faccio, e questo mi dà una grande forza, una grande libertà e una grande responsabilità. Una legge, peraltro, elettorale, una nuova legge elettorale che vige in Sicilia, consente di scegliere il sindaco senza che ci sia il voto di trascinamento. Non c'è un solo voto delle liste che mi hanno sostenuto che è andato a me, perché anche le liste che mi hanno lealmente sostenuto, penso ai Italia dei Valori, penso alla Federazione di Sinistra, penso ai Verdi Ecologisti, non bastava che si votasse per quelle liste perché il voto andasse a me. Quindi comunque il 50% circa dei palermitani ha segnato e ha scelto Orlando. Adesso, andando al ballottaggio, le liste che mi hanno sostenuto avranno il 60% dei consiglieri, quindi io potrò contare su una maggioranza di 30 consiglieri su 50, perché è appena sufficiente ovviamente per governare. Ma io, Oscar, se sei d'accordo, vorrei chiedere questo a Luca Orlando: se il caso di Palermo è l'emblema anche di una sconfitta del Partito Democratico. Cioè, ricordiamo la candidatura alle primarie di Rita Borsellino, che poi perse, le accuse di brogli, e a quel punto Orlando dice: allora mi candido io. E di fatto quasi tutti i voti sono andati lì, invece il Partito Democratico sosteneva appunto Ferrandelli. Lei, se guarda a Roma e vertice del Partito Democratico, Orlando, cosa vuole dire come messaggio? Ma io credo che i vertici del Partito Democratico farebbero bene di smettere di andare in giro per le realtà italiane raccontando favole e non tenendo conto della realtà del loro partito. Palermo sono venuti Bersani, D'Alema, Letta, sono Fioroni, sono tutti Violante, tutti venuti dicendo: non votate Orlando, non votate Orlando. Beh, hanno fatto la fila che ha fatto Andreotti qualche anno fa, quando venne a Palermo dicendo: non votate Orlando, e tutti hanno votato per me. Perché lei ha un pessimo rapporto con quasi tutti quelli che lei ha citato? Perché con alcuni di quelli che ha citato c'era anche peggio che pessimo, con uno in particolare. Però per una ragione molto semplice, che la stragrande maggioranza dei loro elettori vota per me. Ci sarà una ragione per cui la stragrande maggioranza del PD ha votato per me a Palermo? Perché gli elettori del PD non sopportano il sostegno che il PD dà in Sicilia all'inquisito per mafia Raffaele Lombardo. Le sembra un dettaglio? No. Beh, la questione Lombardo è una questione enorme. È la questione cruciale, forse, lì a Palermo. È esattamente una questione dirimente. E quando mi raccontano la foto di Vasto, dico: sì, Abbasto, però non è previsto che ci fosse assieme con Bersani anche un presidente di regione inquisito per mafia. Ma lei pensa che uno deve essere legato al PD se il PD in Lombardia o in Puglia dovesse portare un presidente di regione inquisito per mafia o per gravi reati? Grazie, non fumo. Meglio stare a Palermo anziché a Vasto. Posso farle una domanda? Secondo lei, nella strategia che ha portato pezzi di PD, il PD poi anche nazionale, a considerare quella di Lombardo un interessante esperimento, era perché guardavano con l'occhio al passato, del 61-0 ancora dei tempi di Berlusconi in Sicilia, e dicevano solo così possiamo erodere facendo a pezzi e a patti con pezzi della destra siciliana, oppure la ragione era un'altra, puro potere? Perché? Ma quando è che si capirà che in politica la coerenza è importante e c'è un solo modo per vincere, non avere paura di perdere? Il PD purtroppo in Sicilia vive costantemente con la paura di perdere e di fatto perde continuamente, perché gioca a ribasso. E oggi, se qualcuno mi chiede in cosa il PD si distingue da Raffaele Lombardo, non riesco a dare una risposta. Sono la stessa cosa, o almeno appaiono la stessa cosa. È una cosa assolutamente inaccettabile in un sistema politico che si dice debba essere bipolare e poi alla fine finisce con dare i voti determinanti al sostegno del candidato che era, ricordo, 2 anni fa alternativo, cioè 4 anni fa alternativo alla senatrice Finocchiaro. Noi abbiamo oramai maturo l'appuntamento con, sì, il traffico. Sì. Un'ultima domanda flash, me lo dice Orlando, se diventa sindaco, cosa che ormai è presumibile, prevede di magari mettere dentro anche Rita Borsellino in giunta? No, Rita Borsellino che mi ha sostenuto in questa campagna elettorale, che non mi ha fatto mancare il suo conforto, è rimasta umanamente profondamente provata dal comportamento alla quale è stata sottoposta da un signore che si chiama Bersani, che poi è rimasto lui impiccato a Lombardo e ai suoi amici siciliani che sostengono Lombardo. Beh, maggior ragione, quindi dice la porta con sé, no. No, credo che sia questo il senso complessivo di un rapporto di stima e fiducia reciproca. Credo che la Sicilia abbia bisogno di entrambi, di me che faccio il sindaco di Palermo e di Rita che continua la sua attività di promozione di cultura e legalità e di parlamentare europeo. Allora, grazie a Luca Orlando. Oscar, noi andiamo al traffico, poi lo sai che noi abbiamo chiamato un ospite, ma no, non ti voglio svelare molto, però tra poco lo scoprirai. Va bene. È la sorpresa. Perché è la sorpresa, perché in Sardegna si è votato un referendum, sai. E i sardi, quelli della Brigata Sassari, come sempre salvano l'Italia dal basso, perché dicono aboliamole le province. Tra poco. Bravi. La versione di Oscar. E tornano i Doors, oggi ho mancato di far incazzare qualche stupido che mi manda sms dicendo che sono un servo, che utilizzerei gli imprenditori per fare pubblicità alla mia trasmissione. Prego questo signore di vergognarsi e di sprofondare nel girone più basso della veramente nequizia, perché se non ha capito che Radio 24, non Oscar Giannino, direttore Fabio Tamburini, io Barisoni eccetera eccetera, tutti ci siamo messi al servizio di migliaia di lettere che arrivano, non è che le scriviamo noi, e che c'è un fenomeno che avviene tutti i giorni nella società italiana che unisce purtroppo nel dramma i dipendenti e i piccoli imprenditori che si suicidano. Perché qui non si fanno distinzioni, perché l'Italia sta andando a un calo dei consumi pro capite quest'anno del -3,2%, che è molto più grave nell'ambito del doppio di quello che è avvenuto nel 2008-2009, a cui sono seguiti poi 2 anni di stasi. Questa è la proporzione delle difficoltà economiche di un paese che ha 22 punti di produzione industriale meno del 2007, che passa a investimenti in macchinari da 152 miliardi nel 2007 a 120 miliardi quest'anno. Cioè c'è un dramma economico in corso, e queste lettere di cui noi parliamo, stupido che mi insulti, poveretto, lo facciamo per dare voce e ascolto a ciò che sul giornale italiano oggi è puntualmente di nuovo sparito. Oggi persino le pistolettate all'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, di ieri, che sono un raggelante segnale di demenza, di gente che riprende le pistole a sparare, nell'ambito anarco, insurrezionalista, notav, non voglio generalizzare perché non lo so, anche questa notizia fatica a stare in cronaca nei giornali di fronte alla portata delle elezioni amministrative. Ma da domani noi riprenderemo invece il nostro ascolto, non per attirarci pubblicità, che non ci vale pubblicità, anzi ci vale pure le accuse magari di qualcuno che dice che vogliamo deprimere l'economia, ma dobbiamo farlo. Ecco, allora, noi adesso eravamo in attesa Alessandro, un ospite che però è occupato. È occupato al telefono. Noi abbiamo chiamato Pierpaolo Vargiu, che è il leader, uno del movimento referendario per l'abolizione delle province di Sardegna, quello che ha cancellato quattro province. Cosa. Ce l'hanno fatta. E soprattutto ce l'hanno fatti i sardi. Soprattutto la percentuale dei sardi che prima hanno reso con la loro partecipazione al voto valido il referendum. Ma hai visto quanti hanno dato la risposta sì, aboliamole? Sì, è chiaro. Se si fosse raggiunto il quorum si sapeva che sarebbero state cancellate. Già un presidente si è dimesso ieri di una di queste quattro province. Invece un altro no, abbarbicato alla poltrona. Non lo so. No, perché mi hanno spiegato che ci vuole adesso un atto amministrativo del governatore Cappellacci, che però è per l'abolizione di queste quattro province. Dunque, Cappellacci, se ci ascolta, per favore non faccia scherzi. Possiamo fare questo appello. No, perché Cappellacci, visto che è stato accusato il capo della giunta di centrodestra di voler cavalcare un pochino furbescamente questi referendum, adesso invece ne deve applicare coerentemente e anzi diventare una specie di leader del movimento nazionale, la provincia abolirla si può, come vogliono gli italiani. Ma infatti, ma Oscar, tra l'altro, fuori di demagogia, non è che con l'abolizione di queste quattro provinciuole noi abbiamo risolto i problemi dell'Italia, certo, o del debito pubblico, del bilancio dei conti dello Stato. Come abolendo tutte le province, noi risparmieremo qualche centinaio di milioni, non centinaia di miliardi che si possono risparmiare. Centinaia di miliardi, diciamo 80-90 sono la cifra considerata aggredibile anche dal rapporto di Piero Giarda. Se lo dice Piero Giarda, Giannino dice almeno 120 sul totale degli 700 di spesa. In ogni caso ce l'hanno fatta. Vogliamo allora sentire un ascoltatore, giusto per chiudere, visto che il nostro Pierpaolo Vargiu è occupato, starà rilasciando interviste ovviamente, da trionfatore. Abolitele, cominciamo con Daniele da Prato. Prego Daniele. Daniele. Sì, stavo ascoltando la vostra trasmissione e come cittadino non riuscivo a capire come la Lega e questi politicanti possono pensare di ritrovarsi una verginità. Lei ce l'ha con la Lega, con tutti, con chi? No, io non ce l'ho con nessuno. Io l'ha detto la Lega. Sì, ma anche PDL, lo stesso PD, insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che non hanno fatto. E io come progressista che ha 18 anni ha votato PC, sono molto deluso da questa politica. Come rifarsi la verginità? Allora gli risponde Oscar Giannino. Oscar, qui il problema è questo: dobbiamo prenderli e buttare a mare tutto? Perché poi se non c'è il ricambio, non è che uno dal giorno all'altro si sveglia la mattina e dice ok, via tutti, e adesso? No, io credo che le operazioni in cui ci si fanno mettere gli meni nuovi siano operazioni un po' complicate, quindi per fare la verginità nuova bisogna cambiare le facce e soprattutto dare risposte che siano adeguate ai problemi del paese. Questo i partiti faticano molto nella continuità a darlo. Di solito nei partiti vecchi c'erano dei leader interni che nascevano, che affrontavano scontri durissimi con le leadership intorno ai segretari vecchi o ai ministri vecchi, ai presidenti del consiglio vecchi, se le davano di santa ragione e si prendevano il partito e si cambiava la roba. Se non si mette in conto scontro durissimo, questa roba non può avvenire. Nella continuità non avviene, non può essere Berlusconi a dire la Santanchè. Ma cos'è che devono mettere di nuovi? E quindi facce nuove e idee nuove. E secondo me il PDL è inservibile, lo dico proprio facce e idee. Prima avevi detto un'altra cosa di mettere di nuovi. No, vabbè, scusami, tu hai chiesto la verginità. Siamo in L'ha chiesto l'ascoltatore la verginità, ho capito. Dai, facciamo sentire Daniele da Milano, non indulgiamo. Ma dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, lasciamoli, Oscar, alla trasmissione di No, Danilo da Milano purtroppo non ci sa. Qua ti sfuma. Io ce la faccio in 30 secondi, però vabbè, niente. Allora, Danilo da Milano, mi scuso perché Milan non ti fa parlare. Ecco, il carabiniere Milan dice, è colpa di Milan, è sempre così. Oscar, io ti ringrazio. Ma tu però non ho capito, sei stato contento di questo bel risultato? Ma sì, certo, io sono contento perché qualcosa deve cambiare, insomma la gente non ne può più. E quindi ma io voglio che cambi tanto, che picchino, naturalmente con le urne, non sto dicendo legalità violata, non lo diamo perché... Però i tuoi ascoltatori dicono che sono chiacchiere antipolitica. Madonna mia. No, sono i tuoi ascoltatori. Siamo nel tuo spazio. Oggi c'è gente che ci ascolta. Dobbiamo che non chiudere. Ciao Va a bene, tutti. A domani. Ciao. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto. La versione di Oscar.